la cronaca, la narrazione di un evento, uno dei tanti di cui il Vangelo fa memoria, il luogo dove si verifica l'incontro è all'aperto, non nelle sinagoghe, non nei luoghi di culto, un luogo che prende più facilmente la possibilità di un dialogo tra i personaggi, più spontaneo. Non c'è distinzione, non ci sono rumori pubblicitari, diremmo quasi è un ambiente molto familiare. La ricerca della verità che illumina il senso della vita, la ricerca del pane. Mi sembra utile guardare in faccia, in volto, quei personaggi dell'evento, la folla, insieme di uomini, donne, bambini, anziani, forse qualche giovane. Che cosa li può spingere a uscire dalla città per incontrare il Messia, o quelli che loro intendono incontrare come Messia? La fama di questo uomo venuto da Nazareth, quello che sta facendo, quello che sta dicendo. Ci sono i discepoli, gente concreta, c'è Gesù, la sua presenza, le sue intenzioni, la sua missione, la sua parola, tono, e ci siamo anche noi. Noi che abbiamo, che ascoltiamo o abbiamo ascoltato, e abbiamo la nostra reazione intelligente, creativa, spirituale, critica, tanti interrogativi. Metto in evidenza due cose che sembrano messe lì quasi di passaggio. La compassione. La compassione che permette di vedere la caratteristica della condizione umana, che è fragile, che è vulnerabile, la capacità di rispondere in maniera creativa, solidale. Questa è compassione. La seconda cosa, c'è la preghiera dell'ultima cena, quindi il collegamento, tenuto conto che Matteo scrive dopo la morte e la risurrezione di Gesù, quindi questi eventi li rivà a considerare dopo e quindi mette questo collegamento. Prima ho detto la compassione, adesso dico la benedizione e la preghiera dell'ultima cena, quella che coinvolge anche noi ogni volta che facciamo memoria della cena del Signore, che è anche nostra. Alcuni flash di riflessione, se volete. Gesù si preoccupa anche del pane e anche dei pesci. E il significato del miracolo narrato dal Vangelo, dove fin dalle prime battute emerge l'attenzione di Gesù, la sua compassione. Secondo me questo è l'insegnamento vero dell'episodio che abbiamo ascoltato, la compassione. E questa è una lezione per i discepoli che, badate bene, dicono cose giuste, sono abilissimi come noi d'altronde nel fare le indagini, le inchieste, siamo in tanti dove andiamo, è tardi, non si trova. Noi siamo abili nel fare le inchieste sociologiche. Il luogo è deserto, dicono, ed è vero. È ormai tardi, dicono, ed è vero. Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, dicono, eppure è vero. I rilievi sono perfetti. Un'indagine corretta. Però dentro in questa compassione e in questa benedizione, queste due parole, accade quello che si chiama il regno di Dio. Accade già oggi in qualche misura in mezzo a noi. Quando non ci fermiamo alle indagini, alle opinioni, ai rilievi critici, quando il cuore ospita dentro di sé questa compassione, che è immagine della compassione di Dio. Accade il regno di Dio, vorrei aggiungere, quando la compassione non è parziale, o solo per il corpo, o solo per lo spirito. Gesù non è uno che predica senza chiedersi nel cuore: ma questi uomini, queste donne, questi bambini, questi anziani, da dove vengono? Li ha davanti agli occhi. Questa gente che da ore ha camminato e chissà quanta stanchezza, quante attese. E Gesù queste cose le coglie, se le vive dentro. Io me lo chiedo molte volte, con un po' di, così, di titubanza. Non sarà che accade poco il regno di Dio nelle assemblee cosiddette dei fedeli, le assemblee liturgiche, non dico quelle oceaniche che lasciano il tempo che trovano. Da dove vengono, dove vanno, da quali problemi vengono, in quali problemi vanno. E da ultimo, ma non è solo per così, le suggestioni sono a catena. Accade il regno di Dio quando riconosciamo anche la nostra fragilità. Anche la nostra povertà, 5 pani e 2 pesci, ma quel poco che siamo, quel poco che abbiamo, lo mettiamo e nelle mani di Dio e nelle mani di chi ci sta attorno. Ma non sarà che noi oggi vogliamo moltiplicare ma senza dare? E non sarà che il nostro problema sta diventando solo quello della moltiplicazione dei beni? E anche questo è un problema vero, ma non lo coniughiamo con la divisione dei beni, la condivisione dei beni. Poi capite che considerare il cosiddetto miracolo della moltiplicazione dei beni, miracolo non so, so che è avvenuto un miracolo, la condivisione, che è passata attraverso la compassione nel guardarsi in faccia tra le persone, fosse così vero, Palestini e Israele, fosse così vero in Ucraina e in Russia, fosse così vero nelle coppie che fanno fatica a stare insieme, fosse così vero. Condividere è convocare Dio. Non ora lo facciamo in un gesto così. Prendete e mangiate. Prendete e mangiate e condividete. Infatti, più volte mi avete sentito dire che Gesù Cristo si fa presente non tanto nel pane, ma nel pane in quanto è condiviso. Lì c'è. Puntini, puntini, puntini, ognuno se la faccia bollire. Gloria a Dio. Pace in terra agli uomini di buona volontà, noi ti lodiamo, ti benediciamo.